Buongiorno a tutti da Antonio Pavolini e benvenuti al 17° numero di Conversational, la rubrica di Radio Popolare Roma dedicata alla rivoluzione dei social media. Siamo tutti immersi ormai da anni, almeno così pare, nel brodo delle culture digitali, con strumenti sempre più economici e potenti al servizio della nostra creatività e la portentosa leva della rete come mezzo universale di condivisione dei contenuti, l'immaterialità dei supporti sembra proprio essere un trend irreversibile. Eppure, nonostante tutto, il fascino dell'analogico sembra duro a morire e non solo attraverso le nicchie che, come fanno i fanatici della musica su vinile, sembrano volersi specchiare nell'essere minoranza a tutti i costi, ma anche attraverso fenomeni virali e inclusivi come la lomografia. Una comunità, o meglio una società, di oltre 1 milione di eccentrici, come li chiama qualcuno, che hanno deciso di raccontare il mondo attraverso delle plasticosissime macchine fotografiche giocattolo, le Lomo, appunto. Ne parliamo tra poco. Lomography is an international photographic movement that breaks all the rules. It's about lifestyle and philosophy just as much as it's about taking good pictures. It's passionate, democratic and playful, and at its heart is a small wonder of Russian technology, the Lomo Compact. I've had this camera for... it's like 4 or 5 years now. It changed everything for me as a photographer. It really opens your eyes, always having a camera on you, and it's like being much more in the moment, being aware. I started taking pictures all the time. I had the camera on me always. Before that, you know, taking my camera out was a big deal, and I would bring a bag, and I'd have lenses, and, you know, I really thought about what I was doing, and with this, I just stopped thinking and just started shooting everything. Allora, abbiamo voluto aprire con il suono di questo scatto meccanico, un suono che ha indubbiamente un certo fascino, l'otturatore della LCA, della più classica, della più inimitabile di queste macchine di plastica. E oggi, vabbè, l'avrete capito, parliamo di analogico rispetto al digitale, partendo da questo esempio ormai che ha assunto una dimensione importante. Lo facciamo intanto in studio con Antonio Amato. Ciao. Che saluto. Antonio Amato, also known as, conosciuto come Nemo, fotografo prosumer, direi, no? Un po'. Sì, diciamo di sì. Diciamo che sei una persona che soprattutto si diverte a fotografare, ma con capacità, insomma, professionali. Anche l'omografo, hai una Olga, insomma, hai pubblicato anche delle Lomo. Non vorrei chiamarti un esperto di culture digitali, proprio perché le culture digitali, prima ancora, insomma, di parlarne, vanno fatte. Cioè, e quindi ovviamente tu sei uno che contribuisce parecchio con le tue foto, il tuo Tumblr, il tuo bellissimo blog, che risponde all'indirizzo www.nemoblog.org, e anche questi progetti speciali che fai ogni tanto, come questo queer pasticciaccio bello, questo PDF collaborativo di cui abbiamo parlato qualche settimana fa, di cui sei stato coordinatore e impaginatore supremo finale definitivo. Esatto, la forma finale, ecco. Dove le foto giocavano un ruolo importante. Eh, cioè, beh, certo, infatti. C'è anche una mia Lomo lì dentro. Esatto, tra l'altro. E, bene, dunque, intanto la prima cosa che ti voglio chiedere è, ma insomma, che cosa c'hanno di tanto speciale queste macchinette per aver creato un movimento di oltre 1 milione di persone? Beh, penso che sia una normale reazione all'epoca del digitale, cioè un po' come avviene anche con, come hai detto tu, con i dischi, è una reazione, per quanto mi riguarda, cioè, è connaturata nella mia essenza. Io non riesco a non pensare alla pellicola quando penso alla fotografia, e perciò la bellezza della lomografia è proprio il fatto che ti permette di scattare con una certa facilità e senza preoccuparti tanto in analogico. Che... Io intanto sto facendo sentire, non so se si è sentito vicino, sì, al microfono, sì, il suono di questo otturatore pazzesco che ha un risvolto quasi erotico, nel senso che veramente rispetto ai terribili suoni WAV che scattano quando usi un telefonino... Insomma, è un bel passo avanti dal punto di vista dell'esperienza personale, anche intima, con la macchina, fino a raggiungere vette di feticismo. E la prima cosa che ti vorrei chiedere è, vorrei subito smarcare un po' la polemica di sottofondo che in tutti questi anni ha circondato il fenomeno della lomografia. Ci sono due estremi in questa polemica. Gli esaltati, che dicono che si tratta di una forma d'arte che non viene capita dai fotografi tradizionali, no? Che girano esclusivamente con le lomo e non hanno mai fatto e ne scatteranno mai più nulla nella vita con qualcosa di diverso. E poi all'altro estremo, quelli che dicono che sono tutti dei celebrolesi con l'anello al naso, vittime di un riflesso condizionato di una campagna di marketing che li governa in ogni loro decisione. Non voglio dire la verità sta in mezzo, perché secondo me non si trova la verità lungo un asse monodimensionale, cioè ci sono tantissime possibili diverse angolazioni. Però, insomma, io penso, intanto, molto banalmente, se qualcuno di questo milione di persone che scatta foto in giro e le pubblica ti dà fastidio, tu puoi benissimo intanto ignorarli. Sì, questo è normale. Beh, c'è anche la questione masochismo. Cioè, praticamente devi essere un masochista per arrivare a scattare solo con una lomo, perché come tutti sanno i primi rullini sono un fallimento quasi totale. Ne so qualcosa. È difficile riuscire ad arrivare a un livello tale da avere delle foto appunto da pubblicare. Però la bellezza è che comunque anche di fronte a una foto non eccelsa da un punto di vista proprio tecnico puoi benissimo pubblicarla, perché appunto non ti devi preoccupare minimamente di un difetto, di una messa a fuoco sbagliata, perché quella è l'essenza della lomografia. Ecco, tra l'altro hai citato i rullini, che vengono un po' sottovalutati, però intanto bisogna comprare dei rullini tradizionali, che fino a poco tempo fa non erano facilissimi da trovare, ne trovavi tipo 2-3 nei negozi proprio di fotografia. Beh, insomma, io l'altro giorno sono andato da Auchan, in uno di questi grandi centri commerciali, e mi sono ritrovato di fronte a un enorme cesto pieno di pellicole a basso costo, tra l'altro di una marca locale, no, eccetera. E insomma, tornano ad avere un mercato, cioè sta risorgendo il mercato della pellicola grazie alle lomo, mi stai dicendo questo? Quelli sono i rullini migliori, secondo me. Beh sì, per chi fa le lomo, più sono di bassa qualità. Esatto. Ecco, perché una lomo buona viene fuori tendenzialmente più è bassa la qualità della pellicola? Ecco, addirittura scaduta, dicono. Eh sì, infatti, io ho scattato con delle pellicole scadute da un paio d'anni. Perché fondamentalmente la lomo non fa, cioè in particolar modo la lomo, la LCA, non fa altro che saturare l'immagine in una maniera incredibile, e lo fa grazie al suo obiettivo. È associato a una colorazione che poi è quella della pellicola scaduta, che ovviamente non è quella originale. E non è prevedibile, cioè può virare verso il verde, È il bello della fotografia analogica e della lomografia, cioè il fatto che tu non saprai mai che tipo di foto hai scattato fin quando non le porterai a sviluppare, fondamentalmente. E quindi si crea questa suspense, è sempre pathos. Pasqua, è sempre Natale, è sempre Pasqua con la lomografia. Va bene, diciamo, quindi... È già importante dire, primo, che non si cerca di controllare il risultato, come grande, diciamo così, concetto di sottofondo a tutta l'esperienza dell'omografo, ma poi soprattutto che ci si può innamorare anche un po' di questo processo. Cioè è il processo in qualche modo anche che dà delle soddisfazioni, perché tende invece alla foto dove tu vedi subito nel display quello che viene fuori. Magari la cancelli perché non sì, viene bene. Sì, è quello il discorso. finisce per saturare l'esperienza. E poi non è detto che ciò che cancelleresti all'istante, no? Nella foto fatta con l'iPhone, la cancelleresti magari 3-4 giorni dopo, che certo, sono i tempi magari analogici. Va bene, dunque abbiamo introdotto un po' il tema, sentiamo un altro inserto e poi introduciamo uno dei nostri ospiti. Lomography is an international communication project. It's communication with pictures. It brings people together. We like looking at very mundane things that are not that exciting in themselves, but that say something about the way we live our lives and the society and surroundings we live in. Lomography make things big which are small and make things small which are big. I love details, I love other people, I get this super positive feeling about little things. Allora, abbiamo sentito le voci intanto dei due iniziatori di tutta questa pazzia, Matthias Figl e Wolfgang Stranzinger, nomi difficilissimi da ricordare, da pronunciare, io me li sono scritti 40 volte, sono i due studenti viennesi che nel 2001 cominciarono a usare questi oggetti così fascinosi trovati nei mercatini all'inizio di Praga, eccetera, senza nessuna reale catena distributiva, senza nessun sistema commerciale per distribuirle. Dunque dovremmo avere in collegamento in questo momento Marco Bressan da Milano. Ciao Marco. Ciao a tutti. Allora, fotografo anche te, diciamo che di mestiere, io ho visto un po' che tu hai fatto tanti mestieri creativi, sei stato art director, forse lo fai ancora in una certa misura, forse più ampia. Sì, e sei anche l'omografo, cioè hai giocato un po' anche tu con queste sì, sono anch'io uno di quei pazzi che gira con una macchinetta di plastica al collo. È bellissimo vedere qualcuno che può dire questo, perché non è stato facilissimo trovare dei lomografi abbastanza entusiasti, pronti a parlare davanti a un microfono in un tritacarne polemico. Noi abbiamo già cercato di smarcare la polemica, se sia arte da un lato o una bieca campagna di marketing dall'altro, perché vorremmo provare a parlarne un po' più serenamente, e lo facciamo con te, che insomma io ho visto hai titolo per parlare, perché fai veramente delle foto fantastiche con gli apparecchi seri. C'è questo blog che si chiama questo sito che è www.tappano.it, perché Tappano è anche il tuo nickname che mi hanno affibbiato tanti anni fa e che mi fa compagnia. Ma come nasce questo Tappano? Cioè, Nemo ci posso arrivare, ma Tappano? Tappano è tutta colpa di un mio amico che fondamentalmente, quando ci siamo conosciuti, c'era una canzone di Elio e le Storie Tese nel quale si diceva a questa ragazza: vabbè, non vuoi uscire con me, poi dopo scopro che sei uscita con Tappano, e c'era una situazione particolare in corso, diciamo che... Vabbè, è tutto molto chiaro. Non scendiamo in particolari. Esatto. Dunque, abbiamo sentito questi due ragazzi, tutto nasce all'inizio degli anni 90, in un periodo un po' particolare, perché era appena crollato il muro, ma ancora esisteva una contrapposizione tra lo stile di vita americano e quello russo. Un po' tutta la storia me la sono rivista oggi su questo documentario della BBC, andato in onda qualche anno fa, ma che si trova ancora su YouTube e che ripercorre la storia di questa avventura. Intanto dimmi tu com'è che hai scoperto le Lomo, Marco. Allora, innanzitutto, non essendo propriamente un fotografo professionista, mi amo definirmi fotoamatore. Come fotoamatore amo cercare tutte le forme d'arte possibile. La fotografia è un'arte fantastica perché ti permette di vedere con diversi occhi e ti permette di imparare tanto. Le macchinette l'omografiche, le ho scoperte perché comunque ho una passione anche per il mondo vintage e quindi mi sono ritrovato in un mercatino a acquistare una prima macchina appunto. Quindi mi stai dicendo che si incrociano degli insiemi di appartenenza, l'insieme vintage, l'insieme degli amanti dell'analogico, gli amanti della fotografia naturalmente, cioè bisogna essere persone comunque un po' predisposte per girare con queste macchinette al collo. Devi soprattutto avere la pazienza di dimenticarti che non è una cosa digitale, nel senso in cui l'analogico è fantastico, ma devi portare il rullino a sviluppare. Il digitale te lo scarichi sul computer e te lo guardi. E purtroppo molti non hanno più voglia di aspettare. Ecco, qual è stata la prima Lomo che hai comprato? Una LCA classica o sei partito come Nemo dalla Olga? No, sono partito da una Olga multicolore, sì. Molto carina. Mi ha colpito soprattutto per essere di vari colori, è gialla, rosa e blu fondamentalmente, perché non passa neanche inosservata. Però va molto bene nell'uso street, perché sembra davvero un giocattolo e quindi quando tu fotografi qualcuno, diciamo che quella reticenza che trovi davanti a una macchina fotografica vera viene sorpassata dal fatto che sembra che tu stia giocando. Ecco, voglio chiedere ad Antonio, io ho provato a lanciare la parola giocattolo qua in mezzo, ma naturalmente lo faccio con affetto, anche perché sono felice proprietario di una LCA, la seconda che ho comprato nel giro di pochi mesi, perché purtroppo la prima mi è stata sottratta illecitamente. Allora, la parola giocattolo, se lo dici affettuosamente, va anche bene. La verità è che però ci sono anche delle componenti di valore in queste macchine, in qualche misura. Non sono necessarie, cioè, non vorrei anche sfatare il tabù delle componenti scadenti, perché per esempio adesso la famosa lente della LCA è una cosa che è stata prodotta per tantissimi anni e ha costi industriali abbastanza alti per l'Unione Sovietica dell'epoca da questa fabbrica di San Pietroburgo, la Lomo, che poi è anche la Mecca dove si organizzano viaggi organizzati, cioè se tu diventi uno dei malati vai anche a San Pietroburgo a visitare la fabbrica, io non so se arriverò mai fino a questo punto, però insomma pare che questa fabbrica alla fine abbia una storia straordinaria, cioè loro sono nati prima della rivoluzione, poco prima della rivoluzione russa, nel 14, poi hanno cominciato a fare nel 39 la prima vera macchina portatile di tutto l'est, e poi hanno fatto grandi telescopi, a un certo punto nel 76 hanno fatto un telescopio che era il più grande del mondo, in quel momento con una lente che aveva un diametro di 6 metri. Insomma, a livello ingegneristico, parlare di giocattolo è un po' riduttivo, forse. Vabbè, parliamo della Russia, d'altronde, cioè, voglio dire, la cosa strana della Lomo, in particolare della LCA, che forse è una delle meno economiche della famiglia della Lomo, è il fatto che comunque ha un obiettivo particolare, cioè quasi un grandangolare, per cui ti permette di avere una visione che altre macchinette del genere non hanno. Però appunto sta tutto lì, cioè il fatto di dire io sto guardando con un occhio leggermente diverso, come appunto diceva Marco, perché le persone non hanno l'impressione di aver davanti un fotografo con una macchina fotografica che costa 2.000-3.000 euro, un obiettivo gigante, per cui anche appunto fa bene, è perfetta per la street photography proprio per questo motivo, perché ti permette di passare quasi inosservato, hai la solita reticenza di fotografare in pubblico, sparisce con la Lomo, cioè non te ne preoccupi, per cui vai, certo, vai dritto al punto. Senti Marco, per tornare per un attimo, perché ne abbiamo accennato prima, allo sfruttamento commerciale, no? Che tra mille ostacoli, mille difficoltà, adesso ha preso ormai una sua dimensione tangibile, anche perché ci sono questi store ufficiali della società lomografica nel mondo, ne ha aperto uno a Milano circa 2 mesi fa, se non sbaglio, in Brera. Sì, esatto. Tu sei già stato a questo store? Io purtroppo lavoro lì vicino. Ah, ecco, quindi ti sei stabilito lì dentro. Esattamente, la mia pausa pranzo la passo dentro insieme a loro. Benissimo. Allora, intanto raccontami che succede in questi store. Uno va lì e che fa? Compra le macchine oppure sta a guardare questi pazzeschi Lomo Wall? Raccontaci che cos'è intanto un Lomo Wall. Ma allora, innanzitutto, i negozi sono dei point, quindi non sono dei negozi nel quale tu vai e trovi tutto quello che ti serve per la tua macchina. Perché? Perché comunque sia, tutto quello che ti serve per la tua macchina, tu lo trovi sul sito della Lomography, okay, che è il loro vero store. cioè il negozio tu hai, diciamo, le cose più facili da trovare, cioè appunto i corpi macchina, delle lenti solo per la diana. Adesso ci sono anche le borse, le magliette e quant'altro. Non molto, trovi quelli... molto merchandising alla fine. Sì, più merchandising, esattamente. Okay. Mentre sul sito trovi quelle cose che noi amiamo, pazzi, perché poi c'è tutto un aspetto di Pimp My Olga, fondamentalmente, ecco. O Pimp My Lomo, per dirle per tutte, che è fondamentale per queste macchinette, e tu appunto sul sito trovi tutti i vari componenti, da lenti particolari, filtri, di tutto e di più. Va bene, allora facciamo un'altra pausa e sentiamo di nuovo i due studenti viennesi che raccontano The Early Times, le origini della società lomografica. All the time new ideas came in and new people came in and every night we had to discuss philosophy, architecture, art. On the other hand, for sure we were drunk every night, we had a lot of fun, everything was about girls and parties. And in this atmosphere, Matthias brought the little Lomo camera. It was Matthias who started to take pictures with the Lomo because he found one in Prague and took it back to Vienna. The pictures who comes out of this camera are somehow more colorful. This is something which I cannot really explain. This is just because of this Russian lens. The lens also has this kind of tunnel effect, which means the corners are already a little bit black and the focus is going to the center of the picture. This is stuff I know today. When we started, we didn't know that. We just saw those pictures have a special atmosphere. They have special colors. They are amazing. Eastern Europe, Russia, it's very much in focus. So, wow, a Russian camera, a Russian piece of technology, smelling like Russia. Allora, erano proprio gli inizi, i tempi eroici per certi versi, in cui Matthias portò da Praga questa macchina in una festa. Evidentemente devono essere molto influenti questi ragazzi a Vienna, perché poi dopo un po' di tempo si creò la moda e dopo una serie di incredibili vicissitudini riuscirono addirittura a convincere la fabbrica di San Pietroburgo, che aveva smesso di realizzare queste macchine semplicemente perché aveva un costo industriale troppo alto. E c'era la concorrenza del Giappone, della Cina addirittura, ci si mise di mezzo la politica, perché mandarono una delegazione a trovare il vice sindaco di San Pietroburgo, che all'epoca era Vladimir Putin, e Putin, che evidentemente aveva uno straordinario fiuto per queste cose, già allora convinse il proprietario della fabbrica a ricominciare, giocando, diciamo, sulla riduzione dei margini industriali, eccetera. Insomma, ripartì la produzione e loro divennero distributori esclusivi. E così partì tutta questa incredibile campagna di marketing, partì con delle feste in contemporanea, ricordo, in Russia e a New York, in un periodo in cui, francamente, andare dagli americani e convincerli che un prodotto russo fosse migliore... Insomma, erano passati pochi anni dalla frase di Reagan che parlava dell'impero del male, no? Cioè, la cosa bella è che sembra che di questo fenomeno vada tutto in controtendenza. Forse il successo della lomografia è perché, mentre avanzava il digitale, internet, si creava un'area di consenso intorno all'analogico, al calore, eccetera. Ma soprattutto, mentre c'era questa contrapposizione ancora latente tra blocchi e visioni del mondo, c'era già un messaggio universale, inclusivo. Marco... È assolutamente come dici, ti dirò di più, nel senso in cui il bello proprio di queste macchine, di questa tipologia di utilizzo, è che tu alla fine non sai mai che cosa verrà fuori, perché tra l'altro in queste macchine filtra molta luce, ti può capitare che ti si apra mentre stai scattando se non l'hai chiusa bene con lo scotch, certo. E quindi alla fine hai un qualcosa veramente di particolare che ti fa portare il rullino a sviluppare, ti fa attendere con ansia il risultato, e poi quando hai davanti il risultato ti fa fare il classico oh, ecco. Che ormai col digitale un po' purtroppo l'abbiamo perso. Io sono uno di quelli che anch'io col digitale cerco di la perfezione, l'immagine pulita, e quindi questo è sicuramente un oggetto che ti permette di spaziare un po' sul lato artistico. Diciamo, ti spinge alla sperimentazione, infatti, esatto, anche un po' a maltrattare la macchina, sì, nel senso, cioè, c'è gente che fa il cross-processing, poi magari mi spiegate voi che siete più tecnici di che si tratta. C'è addirittura, ho saputo, la pratica di togliere la spugnetta che c'è dietro il coperchio della LCA proprio per permettere maggiore infiltrazione della luce e quindi ha un ancora minore controllo, no, del risultato finale. Io ci sono riuscito dopo qualche mese, finalmente ho fatto vedere la luce alla mia Olga. A me ho cercato di scassinarla in ogni modo. A me è capitato per sbaglio, cioè io l'ho ricomprata su eBay di recente, la prima me la regalò Matteo Stagi, che saluto, anche lui ci ha provato, però lui è troppo tecnico e quindi si è tirato poi indietro e mi ha regalato grande fotografo, mi ha regalato la prima, che poi mi è stata rubata, ne ho ricomprata un'altra e c'era il proprietario della seconda che, quasi scusandosi su eBay, mi diceva: guarda, la spugna è andata tutta via. Io invece ero tutto contento. Dunque adesso proviamo a fare un piccolo approfondimento, inserire un po' il fenomeno della lomografia in un contesto più ampio. La perdita del controllo, addirittura una tendenza, proprio un trend di consumo che comincia a premiare una fruizione tecnicamente di livello più basso. Mi spiego. Il fenomeno dell'MP3 rispetto al CD. L'MP3 ha ucciso il CD, e qui torniamo nel digitale naturalmente, nonostante che alla fine l'esperienza utente musicale sia inferiore, perché erano dei file compressi, e c'è chi ha teorizzato una good enough revolution, cioè in sostanza una proposizione di mercato che ha successo perché va incontro esattamente a ciò che le masse di consumatori vogliono. Ci sono i fanatici del vinile e ci sono addirittura i fenomeni più estremi di fault art, cioè la ricerca del glitch, dell'errore tecnologico, anche nel digitale, direi soprattutto nel digitale, per ottenere effetti imprevisti. Cioè ci sono le persone, per intenderci, che stampano delle cose, no, con una stampante a getto d'inchiostro, ma poi mentre stampano spengono il computer proprio per vedere che cosa si inventa la coda di stampa e poi fanno dei print wall invece che dei lomo wall. La ricerca dell'imprevedibile. Che significa tutto questo, Marco? Significa poter sperimentare. La fotografia o l'arte in generale, la cosa bella è proprio questa, cioè poter continuare a crescere, imparare, provare. Io sono veramente ormai parecchi anni che sono nel mondo della grafica digitale, web, print, tutto quello che vuoi. Però non mi sono ancora annoiato, c'è da imparare, c'è da sperimentare, c'è la possibilità di fare veramente tanto. Tra l'altro queste Olga, o comunque questo fenomeno, sta fortunatamente spingendo le case che stavano abbandonando la produzione di rullini a ritornare a farli. Sì, sì. Lo accennavamo prima. Tra l'altro, ecco, un'altra influenza è proprio sul mondo della comunicazione anche aziendale, no? Ricorderete che qualche tempo fa la Adidas lanciò degli spot pubblicitari che riprendevano proprio lo stile delle riprese prosumer video. Non c'è più questa ricerca della perfezione tecnica neanche nella comunicazione istituzionale. Questo gioco di rimbalzo tra le culture grassroots che partono dal basso e, diciamo così, invece la grande comunicazione pubblicitaria, ci sta spostando da un'altra parte, lontano dal mondo dei blockbuster e alla ricerca di nicchie, oppure semplicemente si va verso un nuovo blockbusting semplicemente più ricco e più colorato come sfumature? Ma guarda, io credo che come ben sappiamo, come la moda, come la grafica, è tutto molto ciclico, nel senso non si butta via mai niente, no? Si ritorna a riutilizzare, si cerca di scoprire, si riscopre, si rimette mano alle cose. Vedo in giro tanta gente con anche molte macchine analogiche che sono state riprese, magari, che ne so, avevano delle vecchie Nikon del padre che erano lasciate lì da parte, vengono ritirate fuori. Però non è più antiquariato come poteva essere qualche tempo fa. No, ecco. Esattamente. Vengono tutte ricondizionate, vengono sistemate. Tieni presente che poi, tra l'altro, comunque parliamo di macchine con obiettivi che erano veramente molto buoni. Quindi, insomma, ecco, infatti non è che l'industria della fotografia in generale, col fatto che l'elettronica ha raggiunto livelli straordinari, sta cominciando a risparmiare sulle componenti ottiche in qualche modo, per avere più margine industriale, perché poi alla fine quelli sono dei mercati. Cioè, noi possiamo stare qui a filosofeggiare quanto vogliamo sul valore artistico che si può ottenere anche dalle più straordinarie reflex digitali, però poi alla fine quello è un mercato competitivo anche. Ma guarda, in quel caso purtroppo o per fortuna no, nel senso in cui a me capita spesso di parlare con persone sia di Nikon che di Canon, e il loro sviluppo è continuo, gli obiettivi che ci sono oggi sono già pensati per macchine che arriveranno tra 5-6 anni, quindi già oggi noi abbiamo in mano degli obiettivi che sono molto più potenti delle macchine che noi abbiamo in mano, e le sfruttiamo molto meno di quello che si potrebbero utilizzare. Ma vale anche per le reflex digitali di fascia bassa? Scusatemi la domanda un po' tecnica, questa non dovrebbe essere una trasmissione sui device, ma la faccio perché vi interessa direttamente. Cioè, se uno compra oggi una reflex digitale da 500 euro, l'obiettivo è una delle prime cose su cui si risparmia oppure no? Se prendi un kit, sì, ecco. se no ormai è difficile. Gli stessi amatori che prendono la prima macchina arrivano già influenzati il più delle volte, quindi capita molto spesso di vedere un amatore che compra una macchina, preferisce risparmiare sul corpo macchina e prendere magari un obiettivo, che ne so, un 50 con una bella luce, piuttosto che avere il classico 18-55 che ti danno tutti col kit, che lascia un po' il tempo che trova. Adesso sentiamo un altro inserto in diretta dal Gallery Store Lomo di New York, tratto da una puntata recente di Rocket Boom. There are 10 rules of Lomography. Can you tell me what those are? Some of them just kind of go along with how we encourage people to kind of shoot with the cameras. One of them is don't think. That's kind of one where we encourage people to not really worry about, you know, settings or specific lighting conditions. It's kind of just adopting Lomography to be part of your life. What would you say is the appeal of film? Why do people prefer analog cameras to digital cameras in this community? Analog, we like to think it's a lot warmer, and analog ends up meaning love, and it's nice to have something that you can actually see and hold and feel and share with people. And you manipulate it through the camera rather than in the process of developing. Yeah, it feels a little more hands-on and a little more of a personal touch. Allora, nelle parole della proprietaria di questo store newyorkese, intervistata da Molly di Rocket Boom, abbiamo anche sentito un accenno a queste 10 regole dell'omografo, che sono più una leggenda che altro, anche perché poi l'ultima regola ti dice di ignorare tutte le precedenti. Però, insomma, sono comunque dei segnali della direzione che la comunità ha voluto prendere, il fatto di non pensare, il fatto di scattare certe volte senza guardare, anzi tendenzialmente senza guardare nell'obiettivo, all'altezza della cintola addirittura. Ecco, una cosa interessante che ho notato di questa tecnica, io che da qualche tempo mi diletto con queste LCA, è che si riesce a interagire con dei soggetti umani cogliendo delle espressioni assolutamente naturali, mentre appena provi a guardare nell'obiettivo è fatale che scatti un'interazione in qualche modo mediata con effetti negativi. Marco? Sì, è verissimo, ti dirò di più. Io ho una, dopo aver preso la Olga, ho anche, sono stato affascinato e ho preso una Mini Diana. Sì. La Mini Diana, tanto per capirci, è identica alle macchinine che avevamo da bambini, che cliccando vedevamo, che ne so, gli animali piuttosto che, no? Perciò è una macchina che assolutamente non sembra una macchina fotografica, e andare in giro con questa macchina, anche sul tram per esempio, ecco, con una persona davanti, tu riesci a scattare una fotografia senza creare nessun tipo di imbarazzo. Chissà cosa ne pensa il garante della privacy di questi, esatto, di questi discorsi. Ma beh, c'è da dire che spesso mi dico che qualcuno prima o poi mi dà un sacco di botte, non lo so. Ovviamente ciò non avviene con tutte le Lomo, perché per esempio io sono un possessore di una Lubitel. Con la Lubitel sei quasi, esatto, costretto, anche scattando, diciamo, ad altezza cintola, sei costretto a stare lì a prendere a scattare la foto e a farti notare, senz'altro. È per vero, cui... la Lubitel è la più particolare dell'Lomo, è quella forse un po' meno l'Omo delle altre, perché comunque un po' più professionale, riprende una Rolley come concetto, che è una macchina che tra l'altro io ho, che è fantastica, però è un qualcosa di diverso, effettivamente. Va bene, allora noi siamo arrivati quasi alla fine del tempo a disposizione. Vorrei intanto ringraziare Marco per questo intervento telefonico da Milano. Vi invito a seguire entrambi i blog, ci sono tantissime risorse in realtà per la lomografia, basta fare una ricerca con Google con la parola lomography, c'è il sito ufficiale naturalmente che degenera inesorabilmente verso lo store. Se vuoi ti consiglio un paio di utenti Flickr non male, che sono Cinderella of Lomo e Biguz80, ecco, cercateli. Vedevo Antonio che annuiva, quindi vuol dire che li conosce, quindi vuol dire che sono buoni, assolutamente. Io consiglio anche di cercare le Lomo su Tumblr, perché ci sono dei Tumblr niente male, con tante foto veramente sognanti, che poi rientrano tipicamente nella cultura di questo social network, che come sappiamo cerca di trasmettere pure emozioni, e senza personalismi, senza polemiche, suoni, immagini, ed è sempre bello ogni tanto sciacquarci i panni dentro. Per quanto mi riguarda, io vi ricordo ancora una volta che tutte le puntate di Conversational si possono scaricare dal sito www.conversational.it. C'è anche il podcasting, il feed RSS al quale ci si può abbonare, e intanto vi do appuntamento alla prossima settimana. Grazie.